carta e penna in studio il sottoscritto con alla parte tecnica sempre lui il mio Raul Bova, ormai l'abbiamo definito così. Giornate stupende all'insegna del caldo, del sole, la bella stagione comincia a farsi sentire, temperature al di sopra quasi delle medie stagionali. Oggi è una giornata forbitissima di personaggi, spazieremo dallo sport di prima categoria, una notizia straordinaria per quanto attiene Castelbuono, una promozione meritatissima grazie alla squadra che ha dato veramente il massimo dell'impegno, ma grazie anche a un mister giovanissimo, devo dire, che ha gestito al meglio il palmarès dei giocatori che si trova a sua disposizione. Un applauso va anche alla dirigenza nella persona del presidente che abbiamo avuto qui l'altro giorno e abbiamo parlato della squadra, abbiamo parlato del futuro di questa compagine che sicuramente avrà una vita lunga, perché comunque i ragazzi sono abbastanza tosti, motivati, e li abbiamo visti anche sul campo quando è stato conclamato il passaggio dalla seconda alla prima categoria. Quindi ringraziamo anche l'amico Fabio che è il presidente di questa associazione, in mia compagnia oggi qui dietro questi microfoni un collega straordinario, lui scrive per lo Spot, Atletica Leggera per l'esattezza, è un giornalista, una penna meravigliosa, lo adoro come persona, perché poi se lo vedete fisicamente insomma sembra il Cardinal Mazzarino con questo vizzetto che gli dà un tono, una certa blonde, no? E lui è Rosario Mazzola, che ringrazio per aver accettato l'invito, grazie Mazzola per essere qui, Rosariuccio. Grazie Filippo, buongiorno a tutti i radioascoltatori di CRM, un saluto particolare a quelli di Castelbuono che ho nel cuore. Beh, lui è castelbonense, io lo definisco così, è di Châteaubon, per dirla alla francese. Allora, parliamo insieme a te, ti ho invitato per questo motivo, per darmi una mano. Io di sport non è che sia una mente eccelsa, cioè lo faccio, l'ho praticato un po', ma ho praticato altri tipi di sport, non certo il calcio. Mi piace vederlo giocare, mi piace interloquire con Può arrivare lontano, nonostante poi la squadra comunque era giovanissima, siamo riusciti a centrare l'obiettivo e questo comunque mi ha reso molto felice davvero. Rosario. Sì, intanto i complimenti al mister, i complimenti Grazie. Al presidente, i complimenti a tutta la squadra, una squadra giovane, una squadra che deve crescere con quei principi che giustamente diceva Cammarata. Io personalmente ho fatto un tuffo nel passato con questa cavalcata meravigliosa della Castelbuonese, mi ricorda quella che negli anni 70, a metà degli anni 70, che è arrivata poi con la promozione in prima categoria dell'allora C, fu un trionfo per Castelbuono. Castelbuono per la prima volta saliva i gradini più importanti del calcio regionale, allora era molto più sentito il calcio in prima categoria. E fu anche il mio esordio, qui ho un po' di pelle d'oca, un po' d'emozione, il mio esordio giornalistico al Giornale di Sicilia scrivendo del Castelbuono, perché lo sapete, dall'anno prossimo in prima categoria sarete tutti i lunedì, sarete col tabellino, cioè si parlerà di Castelbuono e della Castelbuonese, si parlerà di voi e sarà una bella vetrina, quindi l'augurio più bello che posso fare a tutti, mettetevi bene in mostra. Qualche domanda da fare al mister da parte tua? Ma lui, che forse c'ha qualche giocatore più grande anche d'età, come ha vissuto questo rapporto? Perché in genere parlo anche per esperienza, avendo avuto pure ho fatto pure, fra le tante cose che ho fatto nella mia vita, ho fatto pure l'allenatore, l'amico Vetere lo sa, perché abbiamo fatto il calcetto a Castelbuono, ero più di Fabio Capuana, perché facevo presidente, allenatore, quasi giocatore, quindi l'esperienza partiva da tanti anni, fatta con la squadra del Giornale di Sicilia, e quindi so che è difficile il rapporto dell'allenatore coi propri giocatori, saperlo imporre con la giovane età, mi pare che hai 26 anni, a 26 anni come ti sei rapportato con i tuoi giocatori più grandi? Ma mi hai fatto una domanda interessantissima che fino a questo momento non me l'ha fatto nessuno, e forse comunque è questo l'aspetto che nel campionato ha fatto la differenza, perché ti dirò, quando sono arrivato erano tre le persone più grandette, poi avevo molti coetanei e poi dei ragazzi comunque più giovani. Ecco, proprio loro, i tre più grandi di me, che sono Michele Gentile, Paolo Conoscente e Pasquale Papa, sono quelli che comunque mi hanno aiutato più di tutti, soprattutto Michele Gentile, essendo castelbonese di nascita, così come Paolo, comunque mi hanno dato una grossa mano a gestire soprattutto i ragazzi. Io ho cercato subito di impormi, soprattutto con loro, però loro mi sono venuti davvero incontro, mi hanno fatto lavorare in maniera serena, mi hanno dato addirittura del lei quando io non lo pretendevo. Però questo ha fatto la differenza, ecco, la gestione del gruppo, eravamo un gruppo unito sin dall'inizio, perché stavamo fuori, anche al di fuori del campo di calcio stavamo assieme, ci andavamo a mangiare una pizza, si andava a cena, e quindi questo ha reso tutto un ambiente molto armonioso, ci ha fatto lavorare con la serenità giusta. Non è semplice comunque, c'è da dire anche questo, perché io forse un pochettino ho rischiato, infatti ringrazio il presidente, ringrazio la dirigenza, perché l'opportunità è stata immensa che mi hanno dato, io penso di averla sfruttata bene, però non era facile all'inizio. Ho avuto la fortuna, ripeto, di avere un gruppo alla mano che mi ha aiutato davvero tanto a gestire situazioni anche a volte difficili, perché tu sai bene che fare allenatore non è mai semplice, fare delle scelte a volte sono dolorose, però bisogna accettarle. Io sì, completo dicendo bravo. Bravo perché l'hai saputo fare, ho vissuto qualche esperienza diretta sul campo e ho visto che ci sai fare, ma mi piace fare un'analogia proprio attualissima. Sogniamo pure, stramaccioni. Oggi allena l'Inter con atleti di un calibro straordinario, alcuni dei quali forse quasi coetanei, eppure gli danno del lei, quel lei che tu hai avuto e che ti è servito ad essere da stimolo per vincere il campionato. Complimenti Castelbonese. Grazie, grazie. Rosario insomma è molto oculato, beh insomma è uno che ha molta esperienza nel campo sportivo, lui segue l'Atletica Leggera ma non solo, si occupa di tante cose, quindi l'ho voluto qui per questo motivo, perché è una persona che riflette molto e oculatamente fa le domande mirate, sì, per quello che è giusto fare. Prima di lasciarci, perché il tempo sai comincia a essere tiranno, vorrei dare spazio anche a qualche giocatore, come giusto che sia. C'è stato mai un momento di frizione tra te e la dirigenza, un momento di stress che vi ha messo un po', come dire, non uno contro l'altro, ma di poca chiarezza tra voi? O hai sempre avuto la sensazione di avere la dirigenza oltre che la squadra accanto? No, devo essere sincero, la dirigenza mi ha sempre in un certo senso protetto. L'ho visto dalla prima partita che abbiamo fatto in Coppa, noi sinceramente non avevamo giocato benissimo, era un derby, abbiamo pareggiato 1-1, però loro da lì ho capito che realmente puntavano su di me, perché la dirigenza si vedeva nei momenti di difficoltà se realmente ci teneva. E io ho capito comunque, sì, abbiamo lavorato con serenità. Purtroppo nella seconda parte del campionato abbiamo accusato un po' di inesperienza. La squadra essendo giovane avevamo fatto 10 vittorie e 2 pareggi, e quindi magari avevamo più 8 sulla seconda e qualcuno si stava incominciando a cullare un po' troppo. Ecco, la dirigenza lì è stata brava insieme a me, penso, a saper placare un pochettino gli animi, a far capire che comunque ancora non avevamo vinto niente. E poi, ripeto, abbiamo raggiunto l'obiettivo perché c'è stata tanta voglia e tanta determinazione. Ma in questo ha fatto la differenza anche Castelbuono come paese. Cioè si vedeva, io ho capitato da subito che questa era una realtà che voleva crescere, voleva andare in prima categoria. In qualunque modo si ci doveva andare in prima. Quindi il presidente era esigente, sì, con carattere. Io il presidente l'ho trovato una persona squisita, però anche molto esigente. Sapevo che giustamente se sbagliavo l'opportunità sì me l'ha data, però è normale che io la devo sfruttare. L'ho sfruttata, sono felice davvero. Si è conclusa questo primo anno, una bellissima esperienza, portare una squadra alla seconda in prima categoria non era semplice, non era facile per la giovane età, per la poca esperienza, però tu ce l'hai fatta. E adesso il futuro cosa ti riserva? Cosa pensi di fare? No, restare? Non lo so. Cosa ti è arrivata qualche proposta alla dirigenza, dove ti vuoi fermare a Castelbuono, visto che ti piace tanto, la cittadinanza insomma offre abbastanza. No, che la cittadinanza, che Castelbuono paese mi piace tantissimo, questo lo posso dire perché dall'inizio, ma non solo dalla parte sportiva, anche da tutti diciamo i tifosi, quelli che stanno attorno alla squadra, sono stato accolto davvero benissimo, li posso solamente ringraziare. Ma il futuro non lo so, parleremo con la società, secondo me non c'è ancora tutta questa fretta. C'è fredda. Un velo ancora messo davanti. No, perché bisogna anche capire le esigenze, non mie, soprattutto della società, perché la categoria cambia, io poi ho anche un problema, lavoro nel campo alberghiero. Purtroppo gli orari magari con gli allenamenti, quindi bisogna tastare tanti punti, vediamo. Io la voglia c'è, perché ci mancherebbe, questo gruppo di ragazzi è meraviglioso, però vediamo, si parla e poi magari si decide. Rosario, molto segnatamente volevi chiedere qualche altra cosa. No, io volevo Prego. Intanto dire una cosa. La prima categoria è un salto di qualità importante, dico, e va sottolineato l'aspetto che questa squadra, a differenza di quella che mi ricordava le emozioni di tanti anni fa, in soli 3 anni è passata dalla terza in prima categoria, quindi i 3 campionati intesi, il presidente mi precisava, i 2 anni sì, con 2 promozioni consecutive, però in 3 campionati, e praticamente al terzo campionato si ritrova in prima categoria. Era questo il senso che volevo dare, quindi un passaggio molto importante. È giusto fare le riflessioni che fai tu, perché la prima ha esigenze maggiori, bisogna concentrare maggiormente gli sforzi, essere più preparati anche atleticamente, diventa una cosa un po' più seria. Però mi piacerebbe, ecco, che questo entusiasmo che vi ha portato fino alla prima categoria possa rimanere sull'onda di quello che siete riusciti a fare, magari, dico, ma così la butto lì, Presidente, con l'apporto di un lui possa fare l'allenatore in campo e avere una figura magari in cui, che in tandem possono gestire la squadra, potrebbe essere anche l'idea che lo metterebbe nelle condizioni psicologiche di avere non crearsi quei problemi se un giorno sarà di turno col suo lavoro alberghiero e magari non potrà essere presente come lui vuole. Grazie Rosario, e intanto io devo fermarmi un attimo, i tempi sono quelli che sono, devo dare spazio un po' alla nostra pubblicità. Io ti ringrazio, ti faccio tanti in bocca al lupo per il tuo futuro lavorativo, sia come primo lavoro sia come allenatore, e spero che questa porta che ti sia aperta a Castelbuono porta tanta fortuna. Sì, sicuramente. Ci auguriamo che tu possa diventare, magari perché no, un Allegri della situazione, oppure un Mourinho, chissà. Va bene, grazie a voi. Grazie a te. Prima di passare la parola al capitano della squadra della Castelbuonese, è giusto ringraziare gli sponsor come faccio sempre puntualmente nelle mie trasmissioni. Ringrazio quindi Bicitello Preziosi, anche se siamo in un momento di crisi economica, la gente sta molto attenta su come spendere il proprio denaro, però io ritengo che un gioiello, un pensiero anche di poca entità economica è sempre bello far sorridere qualcuno, no? Quindi se voi andate da Bicitello Preziosi, incontrata in corso Umberto 1 a Gangi, vi do il sito www.bicitellopreziosi.com, vi renderete conto visibilmente di cosa vi sto parlando. Quindi per quanto attiene la gioielleria, abbiamo i solitari come De Gioielli, Nardelli e Donna Oro, che sono le firme che non si discutono. Poi andiamo agli orologi, da Sector, Philip Watch, a Bresson, anche questi di alto profilo, per chiudere poi con la produzione degli orologi di acciaio, che sono Wiss Nomination, Alviero Martini e Roberto Cavalli. Ricordate questo nome, Bicitello Prezioso, via Corso Umberto 1 a Gangi, andateci, spendete pure, perché tanto un regalo vale sempre un sorriso. Se invece volete rilassarvi un venerdì, sabato e domenica, dove andare il Geranio ad Acque Dolci, un ristorante pizzeria con piscina, ludoteca, campo da calcetto e il mare, pensate, appena 20 metri. Questo cosa significa? Che la sera a pranzo o a cena avete il pesce sempre a portata di mano con delle grigliate che sono straordinarie. Per quanto attiene i vostri bambini non ci sono problemi, c'è la ludoteca, se i vostri amici volete farvi una partita a calcio a 5 c'è anche il campo di calcetto. Poi se volete prenotare, 16 stanze sono a tutta vostra disposizione, per cui un weekend di assoluto relax. Allora, vi dicevo, il Geranio ad Acque Dolci lo trovate in contrada Buffone Marina, accanto proprio al campo sportivo. Chiudiamo con Gangi, dove c'è una vera perla, si chiama Perla di Angiu, e un park hotel, sala ricevimenti per i vostri momenti più belli, matrimonio, cresimi, battesimo, tutto quello che volete, cucina nazionale e internazionale, e naturalmente è innestato in un polmone verde. La mattina vi affacciate, respirate a pieno polmoni, e poi sulla vostra destra questa città che è Gangi, che è strepitosa, è molto bella e di sera sembra un albero di Natale. Intanto finiamo con questa prima tranche di sponsor, saluto il candidato sindaco, l'avvocato Polizzotto, e mi auguro che si possa accomodare un attimo. Avvocato, buongiorno, ben arrivato, tra poco passiamo a lei. E allora torniamo un attimo a parlare, e il tempo purtroppo stringe, a parlare del capitano di questa squadra che ha galoppato tantissimo, avete sudato un po' come il Milan ieri sera, però ci sono tantissimi elementi, siete tutti bravi, ma ci sono degli elementi di eccellenza tra voi che riescono a fare dei gol straordinari. Ho visto l'ultima partita, 3 gol eccezionali, insomma, e così via, siete arrivati addirittura d'arrivo. E una domanda da farti è questa: abbiamo parlato del mister, giovanissimo, lui ricordava il fatto che ci poteva essere qualcuno più grande del mister, quindi questa possibilità di non dialogo, no? Di diatribe che si potevano accendere. La dirigenza è stata a totale vostra disposizione, vi ha abbracciato, vi ha aiutato in questo cammino, ma la figura del capitano è emblematica. Qual è la responsabilità di un capitano per noi addetti ai lavori, per far capire cosa significa essere capitano di una squadra? Allora, intanto devo sicuramente dire che sono sì da 2 anni il capitano di questa squadra, ma sono anche io molto giovane. Mi è stata data questa questa fiducia, questa responsabilità che io ho cercato sempre in tutti i modi di onorare. È una figura importante perché deve essere, diciamo, è una figura d'allaccio tra i giocatori, la dirigenza, il presidente, deve avere la capacità di tranquillizzare la squadra nei momenti di difficoltà, perché come ben sappiamo il calcio non è solo calcio, ma è anche amicizia. In particolare devo sottolineare che nella nostra squadra, nella nostra società, si è venuta a creare una vera e propria famiglia, anche grazie al presidente, grazie a tutti i dirigenti, quindi sono le piccole cose che ci hanno portato anche a vincere questo campionato. Il messaggio prima della partita, dopo, la pacca sulle spalle, sono delle cose che possono sfuggire a chi non vive il mondo del calcio. Ti faccio una domanda e poi ti lascio al maestro dello sport, che lui, insomma, ve l'ho detto prima, è una persona che si occupa di tante cose, ma nella fattispecie è molto portato per lo sport ed è un competente. La domanda che ti pongo è questa: molti giovani spesso sostano nei bar, fanno abusi di alcol, di sostanze stupefacenti. Al mio modesto punto di vista credo che invece lo sport possa dare una grossa mano d'aiuto a crescere un po' meglio, no? Di concerto con la famiglia, la scuola, sono tre aspetti importanti della vita di ognuno di noi. La domanda che ti pongo è questa: a te lo sport, il calcio nella fattispecie, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato? Ha detto una cosa bella, perché effettivamente io sono del parere che il calcio a questi livelli non è denaro, non è nulla di tutto questo. Il calcio è qualcosa che aiuta fin da piccoli a far capire ai giovani che sudando, lavorando, divertendosi, poi si ottengono i risultati. Nel caso nostro, appunto, la vittoria del campionato è una vittoria assolutamente sudata, travagliata. Invece questi valori dovrebbero rispecchiarsi nella vita, quindi portare i giovani a sudare, studiare, lavorare per poi ottenere qualcosa. Quindi quello che diceva è appunto stare nei bar, abusare di alcol e cose del genere, sono cose che lo sport tutela, diciamo, in qualche modo. Ma da tutti i punti di vista, sia dal calcio al basket alla pallavolo, è proprio il senso vero dello sport che non è compreso. Nei paesi, nelle città, non tutti capiscono il valore dello sport, che va al di là della partita e dei 90 minuti. Dottor Mazzola. D'accordissimo Federico, io sullo sport ho sempre dibattuto un aspetto importante, qui poi lo abbracceremo col candidato sindaco Polizzotto, questo argomento che è fondamentale secondo me. Lo sport va al di là dell'aspetto agonistico, lo sport è sociale, lo sport è lezione di vita, lo sport è saper perdere, lo sport è sapersi confrontare, lo sport è salute, ma potremmo parlare da qui a domani, abbiamo tanti elementi positivi che vanno al di là di quello che può essere una partita vinta 1-0. Quindi sono d'accordo anch'io sul fatto che lo sport va fatto perché ci mette nelle condizioni di darci grandi insegnamenti per la vita, e quindi chi fa sport va premiato al di là di qualunque risultato. Se poi arriva anche una promozione in prima categoria e poter dire ai cugini siamo arrivati primi, è un'altra soddisfazione ancora. Prima di salutarci e congedarci, perché dobbiamo parlare adesso di problemi anche, voglio dire, di una certa rilevanza, il futuro della vostra città di Castelbuono, abbiamo dato il ben arrivato al candidato sindaco, l'avvocato Polizzotto, e quindi parleremo anche di sport, parleremo di tutte le tematiche che riguardano il paese di Castelbuono. La fattispecie, prego, volevi aggiungere sì, qualcosa? Prima della leggo pausa fra un minuto, sì, prima della pausa fra un minuto volevo soltanto, ecco, in 30 secondi una sintesi di questo meraviglioso campionato, Federico. Allora, un campionato lavorato, un campionato sudato, la creazione appunto di un bel gruppo, i numeri che non sono sicuramente comuni, abbiamo vinto tantissime partite in casa, abbiamo vinto tantissime partite fuori casa, ci siamo presi delle soddisfazioni, siamo riusciti, il presidente in particolare è riuscito a portare riportare a Castelbuono due anni fa io, me stesso, quest'anno Antista, gente che magari giocava qui a Cefalù, per orgoglio, diciamo, Castelbuono si è tornata al suo paese per portarlo avanti nel calcio, perché Castelbuono ha sete di calcio e merita categorie superiori, a mio parere.

Allora, rieccoci in diretta. Vi ricordo, sta ascoltando Carta e Penne, studio Filippo Glorioso. Oggi, eccezionalmente, in compagnia di due personaggi. Abbiamo già dato il benvenuto all'avvocato Polizzotto, che è candidato sindaco a Castelbuono. E vi ricordo che a co-condurre questa trasmissione con me c'è Rosario Mazzola, che insomma è quanto dire. E lo stimo professionalmente, lo stimo come amico. Quindi oggi ho avuto questa grandissima soddisfazione di averlo finalmente, dopo due anni che ci conosciamo, nei nostri studi. Io temo che alla fine della trasmissione io e Filippo ci fidanzeremo, perché non sei il mio tipo. È così pieno non sei, di complimenti per non, me. No, è la verità dei fatti, sei una persona molto a modo, poi sei competente in molte cose, per cui io mi abbevero, essendo un po' più giovanile di te o qualche annetto in meno, mi abbevero la tua grande esperienza. Ma torniamo al discorso, cerchiamo di essere più seri, perché stiamo affrontando delle tematiche che anche se scherziamo, anche se siamo così sciolti, però affrontiamo delle tematiche serie. Si parla del futuro di un paese, Castelbuono, che è quanto dire. Oggi io uso un termine che un mio carissimo amico usa, in quanto ama, insieme a tutti i castelbonesi, anche a chi ci vive, se mi è consentito e mi passi il termine, ama questo paese. È un paese straordinario, lo sappiamo tutti, è conosciuto in tutte le parti del mondo, si può dire ormai, perché siamo arrivati anche negli Stati Uniti grazie a delle peculiarità e ad alcuni fiori all'occhiello che in quel paese ci sono. E quindi stiamo discutendo del futuro di questo paese. L'altro giorno abbiamo avuto qui ospite uno dei candidati, che è il dottor Norata. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi invece l'avvocato Polizzotto. Avvocato Polizzotto, allora, lei non nasce a Castelbuono come me, io nasco a San Mauro, lei nasce invece a Pollina. Dopodiché si sposa e si trasferisce in questa città che è meravigliosa. Io ho ascoltato per molti aspetti interviste sue e anche le sue i suoi discorsi fatti ufficialmente in Piazza Margherita. E allora le chiedo questo: lei è un professionista avviatissimo, tutto quanto, ma che ufficio fare? Glielo dico in siculo. Devo dire che la domanda me la pongo spesso anch'io. No, è chiaro che io, insomma, tutti ormai mi stanno cominciando a conoscere, perché questa esperienza politica ha fatto perdere un po' la mia riservatezza. Questo, diciamo, è uno degli aspetti negativi. Ci sono tanti aspetti positivi, questo è sicuramente un aspetto negativo, perché io, insomma, conducevo una vita abbastanza riservata. Insomma, amo profondamente Castelbuono, ci vivono i miei figli, loro piace stare lì, infatti abbiamo scelto proprio di farci la casa lì, di impiantarci lì. Insomma, viviamo sempre nel comprensorio, da 20 anni che frequento Castelbuono, fin dal liceo, quindi insomma ormai sono, mi sento un cittadino proprio castelbonese, più un cittadino di altri, devo dire. Amo tutto il comparto delle Madonie, insomma già l'ho detto al primo incontro che abbiamo fatto qui, e Castelbuono, devo dire, è un punto molto importante di tutte le Madonie. Chi me l'ha fatto fare? Onestamente non lo so, non saprei come rispondere. È chiaro che i 1000 impegni miei mi mettono un po' in ambasci, questo sicuramente, però io sono un cristiano, quindi penso che nella vita bisogna anche donare qualcosa agli altri. Io ritengo che sia un dono. Sto facendo questa esperienza e donare qualcosa anche di me stesso. Io faccio io assisto le amministrazioni, sono proprio uno specialista proprio in materia di enti locali, ho tantissime amministrazioni in cui faccio consulenze e non solo. Per me, diciamo, è il pane quotidiano. Ho deciso proprio di fare questa esperienza per rompere prima di tutto un attimino gli schemi consolidati, perché io, voi avete visto, sono arrivato in un momento in cui già c'erano due schieramenti, sì, ben definiti. E qualcuno mi ha preso per pazzo dicendo che proprio andavo nella tana del lupo, perché sostanzialmente già il gioco erano fatti e si è arrivato in ritardo. Io devo dire che in queste 3 settimane abbiamo creato veramente la voglia di fare politica a Castelbuono. Non per questo si è scesi di nuovo tutti in piazza, anche gli altri candidati sono stati stimolati, cioè di fatto li abbiamo portati di nuovo a discutere con la gente, con i cittadini. E questo già è un grandissimo risultato per me. Abbiamo coinvolto fortemente i giovani. Giovani però non hanno equivocare con persone inesperte. Stiamo parlando di ragazzi formati, di ragazzi laureati, di ragazzi che già lavorano, di professionisti. Sicuramente persone un po' poste fuori dalla politica fino adesso. Noi li abbiamo riportati al centro. Vedrete anche quando presenteremo interamente la giunta, spero domenica, con tutti i consiglieri, vedete, vi sorprenderemo, perché c'è una squadra profondamente rinnovata in cui c'è una grandissima voglia di ritornare di nuovo in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, per vedere veramente i problemi quali sono. Ripeto, per me questo è un atto donativo lo definisco. Beh, da cristiano lo definisco così. Poi non ci sono vincoli per chi si vuole candidare, c'è ognuno che lo vuole fare, lo faccio. Aspetta un attimo, non mi fregare le domande, perché se no facciamo fare disperi. No, ti do subito la parola. Allora, si parla di formazione di liste, si parla di assessori, qualcuno già presentati, qualcuno già designati. Norata l'altra sera nel suo discorso ufficiale in piazza ha enucleato tutte le cose che sono state fatte, quelle che dovrebbero essere fatte, quelle che si faranno, eccetera. La prima domanda che mi sorge spontanea farle, e l'ho fatto anche a Norata, è questa: secondo lei a Castelbuono quale sarebbe la priorità assoluta, il primo tassello da mettere a posto che, secondo il suo giudizio, in questi anni non è stato manco sfiorato? Guardi, io dico questo innanzitutto. Devo dire che anch'io ho apprezzato la prima legislazione Cicero, secondo me è stata una legislazione molto interessante, in cui si sono fatte tantissime cose, in cui c'era veramente un movimento importante. Tutti abbiamo votato Mario Cicero alla seconda legislatura, perché ha avuto un grandissimo successo, devo dire. Dico tutti in senso lato, voglio dire, ha avuto il fatto che ha avuto più di 800 voti disgiunti, quindi significa che tutti abbiamo condiviso quel percorso e abbiamo votato la persona Mario Cicero. Però devo dire che negli ultimi 5 anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, probabilmente c'è stato un uomo solo al comando, cioè si è perso un po' lo spirito della collegialità, della partecipazione, e questo un po' ha fatto sfilacciare, diciamo, questo gruppo, tant'è che si è dissolto in mille rivoli. Il dato, sicuramente c'è stata una poca attenzione soprattutto alle problematiche locali, perché è chiaro che Mario ha un grandissimo merito, quello di aver portato Castelbuono, diciamo, il nome in tutto il mondo. Questo è un fatto che dobbiamo assolutamente riconoscere a Mario, e io gliene do atto sempre, anche pubblicamente. Ha trascurato probabilmente un po' l'attività locale, e sicuramente ha creato poi all'interno soprattutto dell'amministrazione un clima abbastanza pesante. In atto all'interno dell'amministrazione c'è un clima di, devo dire, quasi di un po' di scontro, di terrore nei dipendenti, ci sono stati procedimenti disciplinari, cioè c'è un attimo di scollamento, secondo me, tra l'amministrazione, i dipendenti e la cittadinanza. Quindi io vorrei riportare innanzitutto un clima di serenità. Penso che sono uno che dà molta sicurezza alle persone, la gente che mi incontra dice sempre: tu dai molta sicurezza. Io faccio questo per mestiere, devo dare sicurezza agli amministratori e quindi devo dare anche sicurezza ai cittadini. Prima di tutto dare questo senso di tranquillità e di partecipazione vera. Questo secondo me è il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere. Poi nei programmi saremo tutti bravi a fare un bel programma, a riempirlo di contenuti, però prima di tutto dobbiamo mettere gli uomini e ricreare un clima di serenità. Questo è il primo obiettivo che voglio raggiungere. Domande per le risposte per cortesia un pochino più stringate, perché sennò ci giochiamo tutto il tempo con una sola domanda. Grazie, avvocato. Prego. Ma giustamente lo provochiamo, e quindi è giusto che poi lui dia le sue risposte certosine. Io, avvocato, le volevo chiedere una cosa. Mi riallaccio alla prima domanda che le ha fatto Glorioso. Chi gliel'ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare non in senso lato. Qui la curiosità giornalistica è viva, e credo anche quella dei radioascoltatori. Ma chi è stato il primo a dirle: Stefano, tu devi fare il candidato sindaco a Castelbuono? Così proviamo intanto a capire chi è stato il primo a spingerla verso questo importante battistrada. Chi per primo ha fatto il suo nome, chi è stato il suo primo elettore? E questa è una non prima si cosa della facoltà di non rispondere. Io non ho nessuna difficoltà, diciamo, a rispondere. Prego, io sono uno molto franco, diciamo, non ho problemi, perché ho nulla da nascondere, la mia vita è abbastanza trasparente, e così come sono nella vita sono anche in politica. Devo dire che il primo a incitarmi è stato mio zio Antonio Cicero. Devo dire la verità, è stato lui a tutti i costi ha voluto. Io sono stato per un mese, diciamo, molto sulle mie posizioni, non volevo assolutamente accettare, perché riconoscendo che sarebbe stato un impegno gravoso per me. E poi, insomma, spinto da questa voglia proprio di cambiamento che si avvertiva soprattutto nei miei amici, nelle persone che mi stanno accanto, a quel punto ho deciso di farlo. Devo dire che forse la prima persona che ha voluto fortemente la mia candidatura è stato lui. Poi naturalmente ci sono stati i gruppi degli Allegra, poi ci sono associate tantissime altre persone che, insomma, poi se volete possiamo dire, però insomma no è cresciuto il gruppo, poi è cresciuto a dismisura. La curiosità era proprio il primo, cioè, come dire, colui che per la prima volta ha fatto il nome Polizzotto a Castelbuono come candidato sindaco, quindi questa curiosità mi è venuta ma proprio sulla domanda lanciata da Filippo. Poi, ecco, il nome del movimento, della lista, chiamiamola come vogliamo, Castelbuono Libera, mi porta a pensare, ma libera da cosa? Ecco, vorrei che questo concetto fosse chiaro, perché noi siamo poi, dico io no, perché avendo la residenza a Palermo non potrò votare per nessuno di voi, però gli elettori castelbonesi magari si chiedono: Castelbuono Libera perché? Guardi, noi abbiamo fatto innanzitutto un comizio su Castelbuono Libera, spiegando proprio il termine di Libera. Abbiamo poi fatto anche una pubblicazione su castelbuono.org. Faremo un opuscolo con la mia, diciamo, la sintesi di quello che rappresento, di quello che rappresenta il movimento, in cui ancora una volta lo metteremo per iscritto. Libertà non in senso, come si usa usualmente il termine liberi, cioè poter fare quello che si vuole, libera da che cosa, non c'è un'oppressione a Castelbuono, questo è chiaro. Libertà è inteso, quindi è coniugato col termine di diritti, cioè liberi quindi di avere, rispettare i diritti degli altri, di portare nuovamente al centro i diritti delle persone. Quello che probabilmente la politica, non solo locale ma anche nazionale, oggi ha perso. Cioè non c'è più alla base il rispetto dei diritti degli altri, non c'è più alla base il senso civico del servizio, ma oggi c'è sempre più il senso del potere, dell'arricchimento e della sopraffazione. Noi dobbiamo riportare in politica nuovamente valori veri, fondanti della società, che è quello del rispetto dei diritti di tutti. Questa libertà è intesa in senso profondo in questi termini. Avvocato Polizzotto, riprendo la palla in balzo io, se no me lo massacri. Allora, avvocato Polizzotto, invece torniamo, queste erano delle domande molto pertinenti, anche per capire, perché lui che fa il giornalista come me, girando per le strade, a volte si sentono delle cose e uno non può dare manco risposte, così abbiamo avuto l'ennesimo chiarimento, ben ha fatto l'amico Mazzola, dall'alto della sua esperienza, a porre questa domanda. Ma io la cosa che mi preme è capire, lo farò anche con Tumminello giovedì prossimo 21, capire i programmi che poi vengono sotto scritti eccetera, capisco che saranno anche degli spot elettorali, ma per esempio per quanto attiene su Castelbuono c'è un aspetto che a me sta molto a cuore. Castelbuono non ha un centro di pronto intervento per quanto attiene calamità naturali e soprattutto per quanto attiene gli incendi. La sua, nel caso in cui lei dovesse diventare sindaco di Castelbuono, sono già successi due fatti eclatanti, macchine andate a fuoco senza che c'era la possibilità di poterli spegnere sull'immediato, col rischio di poter anche esplodere, o anche incendi di Alcon sotto di noi, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco o di Petraria e di Termini Imerese. Lei capisce che la nostra location non è molto vicina ai primi centri di pronto soccorso nel senso di antincendio, per cui sarebbe importante che a Castelbuono ci fosse un presidio. Avete già pensato a una posizione del genere? Guarda, la domanda è molto complessa, naturalmente implica un'analisi molto più vasta. È chiaro che noi, vivendo in un centro molto, diciamo, pieno di tanta vegetazione e non solo, dico, ma con tante altre cose che ci sono, è chiaro che occorre assolutamente avere un centro di pronto intervento. Io lo dico sempre, è opportuno che Castelbuono si doti di un intervento immediato, perché non è possibile che noi ci dobbiamo rivolgere a Petraria in cui ci vogliono un'ora. Dico di più, il bosco nelle condizioni in cui si trova attualmente, che per anni è stato bloccata qualsiasi attività, sta creando secondo me un pericolo imminente. Io devo dire, temo fortemente che ci possano essere anche degli incendi devastanti nei prossimi anni a Castelbuono, perché non è possibile che il bosco venga lasciato a questa incuria totale. Il fatto di non portare, di non far più la legna alle persone, di non poter più utilizzare quindi il carbone, di aver perso queste tradizioni che in fondo erano a tutela del bosco, il fatto che nel bosco non si possa più portare neppure una pecora, per modo di dire, c'è un eufemismo, però è chiaro che il bosco in questo modo rischia di morire. Perché il bosco, nel momento in cui è nelle condizioni in cui si trova attualmente, c'è il rischio di pericoli veramente imminenti. Allora, cosa si può fare? Si può chiedere, casomai, di fare una convenzione con la forestale, perché è chiaro che il comune non ha risorse da poter impiegare con unità ancora aggiuntive, mi sembra assolutamente quasi impossibile, devo dire, non dobbiamo fare castelli in aria. L'unica cosa che si può fare è fare una convenzione con la forestale, cercare di avere una dislocazione forse più ampia nel tempo, nei mesi, piuttosto che limitata ai mesi estivi, e ampliarla ulteriormente. Questa è una cosa che probabilmente si può riuscire a ottenere. Prego. Sì, io con l'avvocato Polizzotto ci rivedremo domani. Domani abbiamo un appuntamento importante a Castelbuono, il giornale di cui vi parlavo prima, Soproponte, che ho l'onore di dirigere, e organizza per la prima volta un confronto, un faccia a faccia fra i tre candidati sindaci, quindi l'avvocato Polizzotto, Antonio Tumminello e Peppe Norata. Lì andremo poi a fare altri approfondimenti che pubblicheremo nel numero che uscirà il 5 aprile. Però qui voglio chiederle, su due punti del programma o due elementi del suo programma che lei è certo che porterà a buon fine, un impegno sul quale scommette qualunque cosa. Allora, io ho sempre detto, abitando in centro storico, ho detto che Castelbuono dobbiamo liberarlo dalle macchie del centro storico, veramente renderlo molto più vivibile. Castelbuono, il centro storico è intasato oggi dalle macchine. La prima cosa che voglio veramente fare tutto con tutto me stesso è realizzare due parcheggi strategici a Castelbuono. Questo secondo me è vitale per dare veramente, rendere nuovamente vivibile Castelbuono. E soprattutto dotarlo, il paese, mi piacerebbe fare un grande, una cosiddetta illuminazione artistica. Castelbuono merita, cioè degli angoli stupendi, merita un'illuminazione adeguata. Io amo la luce, chi viene a casa mia sa come gestisco la luce, a me piace moltissimo la luce, è una delle cose che mi piacerebbe fare a Castelbuono, cioè rendere Castelbuono una città luminosa, anche la sera, renderla affascinante, perché un'illuminazione artistica rende un posto più affascinante, e dotarla poi di un po' di aiuola all'interno del paese. Non c'è un'aiuola a Castelbuono, non c'è un fiore, io amo i fiori, la mia campagna è piena di fiori, devo dire che manca questo aspetto proprio anche sorridente, devo dire. Questo fa parte forse della mia cultura, riportare la Castelbuono di nuovo luminosa e liberarla soprattutto dalle macchine. Sono impegni, se vogliamo, non eccessivamente costosi, non eccessivamente dispendiosi di energie psicofisiche per chi deve amministrare, ma sono delle idee ben precise e che possono essere, devono essere portate a buon fine, perché Castelbuono negli ultimi tempi ritengo che abbia perso molto dello smalto del lancio turistico che era cominciato negli anni 90 e che ci ha portato a essere una delle realtà più belle della Sicilia. Ne conviene? Sì, ne convengo appieno. Naturalmente proprio ne parlano anche i commercianti, ne parlano anche tutti coloro che operano nel mondo, diciamo, dell'imprenditoria, che a Castelbuono effettivamente c'è stato un forte calo, soprattutto nell'ultimo anno, probabilmente dovuto anche alla crisi, e non è soltanto anche un fatto congiunturale. Però è chiaro che c'è stata una lenta fase di decadenza. Bisogna ritornare, innanzitutto, dare servizi. Io non voglio creare illusione nella gente, non è nel mio costume, non mi interessa. Posso anche perdere lezioni, ma non faccio programmi faraonici. Io faccio cose che si potranno mantenere. È chiaro che dobbiamo risistemare prima di tutto le strade. Cioè Castelbuono ha una situazione delle strade disastrosa in questo momento. Io dico sempre, sono molto amico del vice sindaco, glielo dico, gli ho detto pure sul palco, mangiamo insieme la sera, siamo usciamo insieme. Gli dico sempre, ma scusa, che ci vuole a comprare un po' d'asfalto, qualche cosa, sistemiamo un po' le strade. No, non ci sono i soldi. E io dico sempre, scusate, facciamo una festa in meno, però dedichiamoci un po' a queste cose essenziali che rendono più vivibile. Dico, bisogna fare progetti concreti. Io non voglio assolutamente illudere la gente. Voglio che si facciano dei progetti anche minimali, ma che si possono mantenere. Oggi non possiamo illudere più le persone, perché i soldi non ci sono. E non ci saranno neanche da fuori, perché le ristrettezze economiche sono tali, per cui bisogna oggi puntare a cose più concrete, più reali. Non voglio assolutamente illudere la gente. Avvocato, prima di fare una pausa sigaretta, così la chiamiamo noi, a meno per chi fuma, contribuiamo a rimpinguare le casse dello Stato. C'è un altro aspetto che a me sta molto a cuore, ed è il sociale, cioè le persone diversamente abili. Ieri mi hanno fermato un po' di amici che hanno dei figli, dei parenti disabili, e mi hanno fatto una domanda e mi ha lasciato letteralmente basito. Mi hanno detto, come mai siamo paragonati alle bestie, siamo stati messi da parte? Non è riferito certamente ai futuri sindaci, ma si parlava delle passate amministrazioni. E come mai, per esempio, la casa comunale, che dovrebbe essere fruibile a tutti, noi abbiamo lo scivolo a Tergo anziché davanti, come tutte le persone che devono andare negli uffici? Ora, fermo restando che ci vogliono ancora 250.000 euro per allestire la casa comunale, allestire la casa comunale ma sta di fatto che sul sociale si spendono per l'assistenza agli anziani, se non erro, circa 80.000 euro l'anno, a fronte di 2.000 euro l'anno che vengono invece erogati da parte del comune per i disabili. Possiamo controbilanciare questa prospettiva, avvocato? Guardi, per quanto riguarda il sociale, in questi anni c'è stata una politica devastante, devo dire, nel sociale, che parte dai comuni, ma parte innanzitutto dalla regione, che ha sostanzialmente tagliato interamente i fondi. Oggi i fondi per l'assistenza sociale sono stati totalmente cancellati, addirittura nella prossima finanziaria si ritiene che scompariranno i servizi sociali in Sicilia, perché hanno tolto qualsiasi capitolo di bilancio. Questo è un fatto veramente scandaloso, e quindi bisogna qui cercare di recuperare anche un minimo di risorse, anche poche, perché bisogna dare dei segnali. Ci sforzeremo anche all'interno, se io sarò sindaco, di trovare, avere un'attenzione particolare per queste categorie svantaggiate, e cercheremo di stimolare anche un senso di volontariato più diffuso, che anche questo si è un po' perso negli anni a Castelbuono. Cioè, dobbiamo ristimolare nuovamente il volontariato, e quindi su questo ci sarà un impegno preciso. Per quanto riguarda la casa comunale, mi permetto prima di tutto, non ho condiviso assolutamente il tipo di intervento che si è fatto rispetto al comune. Secondo me lei si riferisce al prospetto, ma tutto, un intervento devastante, ritengo, che ha snaturato completamente, diciamo, l'assetto urbanistico di via Sant'Anna, che porta la strada che porta a Sant'Anna. E devo dire che veramente, cioè, io quando lo guardo dico, mi chiedo sempre come sia stato possibile fare qualcosa del genere. Quelle mattonelle le ritengo orripilanti, ma non perché si staccano, ma perché sono veramente brutte. Io, guardando le foto storiche, dico, ma scusate, c'era un intervento da fare molto semplice: guardare la foto storica e riportarlo al passato. Io ho guardato, per esempio, ho fatto il paragone con casa mia. Io ho guardato la foto storica di casa mia, e guardate casa mia come oggi, è assolutamente identica. È stato assolutamente un intervento rispettoso di quello che bisogna fare in centro storico. Io inviterei veramente a una profonda riflessione su questa idea del modernismo a tutti i costi, di inserire elementi di modernità, secondo me è devastante. E lì l'intervento è stato veramente molto, molto, molto brutto, devo dire, a mio modo di vedere. Ma non è soltanto il mio pensiero, è un pensiero un po' di tutti a Castelbuono. Esteticamente non si può dire il contrario, voglio dire, bisogna essere per forza maggiore di cose d'accordo. Per quanto riguarda lo scivolo, vedremo, appena se saremo... Mi pare l'amministrazione, vedremo di trovare anche lì, vedremo di trovare anche lì una soluzione. È una questione di rispetto. Grazie per queste risposte. Ci fermiamo un attimo perché io devo dare spazio, ahimè, io vivo di questo, cioè noi viviamo di questo, perché non siamo la RAI che vive di canone e di quant'altro, ma noi viviamo di sponsor. Allora, le ricordo, ecco, mi rivolgo a lei, se qualche sera vuole recarsi in un posto per mangiare il pesce veramente buono, fresco, ottimo, appena pescato, anzi preso dalle vasche ancora lì calde, deve andare esclusivamente al ristorante Ai Sapori di Mare, dove lo trova in via Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese. Le do anche il numero 091 811 1447, perché oltre a mangiare il pesce freschissimo trova i frutti di mare, i ricci, i crostacei, i cotti e crudi, pesce fresco. Poi se lei, rientrando da Palermo, arriva a casa, sua moglie magari è stanca e non gli va di cucinare, semplice catering, compra tutto già precotto, roba genuina, straordinaria, buono per il palato, col sapore di mare, e tutto funziona alla meraviglia. Allora, ristorante Sapore di Mare lo trovate, vi dicevo, in via Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese. Se invece volete farvi una passeggiata di tutto interesse, fatela a Santo Stefano di Camassa, perché trovate a Porta Palermo, troverete un bed and breakfast straordinario, quindi potete pernottare e dormire lì. Dopodiché l'indomani mattina potete recarvi in un ristorante sempre nello stesso gruppo del Zaffiro per una degustazione dei Nebbro di venerdì, sabato e domenica. Sono aperti questi tre giorni in questo momento, a partire dal 15 aprile invece saranno aperti tutti i giorni, e gusterete tutta roba genuina, enogastronomia locale, nulla di estero o di cucina elaborata, tutta cucina nostrana. Per cui dormite al bed and breakfast di sera, o l'indomani andate a pranzo o a cena alla degustazione dei Nebrodi, e vi spiego subito dove si trova. Lo trovate dunque a Porta Palermo, c'è il Brand and Breakfast. Invece il ristorante della cooperativa agricola Vegna Nebrodi lo trovate poco distante sulla statale 113 prima di arrivare a Santo Stefano di Camastra. Se poi volete passarvi un po' di tempo, dovete andare da Zaffiro Gioielli e vi spiego perché. Intanto perché trovate delle firme straordinarie come Pignatelli per quanto attiene le bomboniere. Tra poco comincerà il mese di maggio, quindi gli sposalizi sono a portata di mano, ma non soltanto per quanto attiene le spose. Liste nozze della Bosch e della Rosenthal, che sono firme veramente di alto bordo. I gioielli di tendenza Bros, Breyel, Rebecca, oppure Re Carlo, Miluna e Chimento. Gli orologi poi, ragazzi, è tutto dire, sono Tissot, Hamilton, Armani e Barberi. Le vetrine outlet sono pensate al 50%, voi ve lo trovate proprio di rimpetto a voi quando entrate sulla vostra destra, ci sono queste vetrine di outlet al 50%, significa che tutto ciò che vedete potete acquistarlo pagando il 50%, con delle firme che sono straordinarie. Non sto qui a dirvi, dovete andare a trovare questa azienda che è straordinaria, e poi chi acquista oltre 30 euro ci sarà un simpatico regalo. Per quanto attiene invece la oggettistica da regalo come ceramica, Gerbino, che si è incontrata a Torrazza sulla stradale 113, dunque ci sono dei vasellami di terracotta tutti rigorosamente fatti a mano, e poi le oggettistiche da regalo fatte anche queste a mano. Se volete, quando arrivate nello showroom, potete portare un vostro progettino per un'anfora, per un capitello, quello che vi piace. Bene, l'azienda Zaffiro, che è un gruppo, vi realizzerà i vostri sogni a portata di mano sotto i vostri occhi. Detto questo, io direi, allora, riprendiamo le reti in mano, la stanchezza comincia a farsi sentire, sono le 13 in questo momento, sto ascoltando Carta e Penna in studio Filippo Glorioso con il collega amico Rosario Mazzola e con la compagnia del candidato sindaco di Castelbuono, il dottor Polizzotto. Prego, volevi porre qualche domanda tu? Sì, volevo ritornare proprio sul clima politico, su quello che possono essere le curiosità della gente. Una che particolarmente mi sta a cuore è quella di capire, attraverso le sue parole, la lista Castelbuono Libera ha componenti di destra, ha componenti di centro, ha componenti di sinistra, quindi è una lista civica nel senso più puro del termine, ma come riesce a convivere gente che la pensa in maniera diversa? Ma è stato abbastanza complicato, devo dire però che ora c'è un clima stupendo. Ieri sera abbiamo avuto un incontro, diciamo, abbastanza importante, in cui abbiamo definito un po' le candidature, in cui abbiamo delineato le ulteriori due figure da mettere in giunta, e devo dire che c'è lei non ci anticipa, ovviamente, non ci fa nessun qualche anticipo ve lo darò, ma non i nomi, e quindi c'è una grande, devo dire, un grande senso di partecipazione. Io, non avendo nessuna appartenenza politica, questo rende un po' più semplice le cose, perché in fondo faccio un po' da mediatore, non nessuno mi può chiedere nulla, perché io dico non ho rapporti diretti con nessun politico, ci lavoro con la politica, conosco tantissimi politici, ho tantissimi amici miei sia di destra che di sinistra, di centro, da tutte le parti. Mi hanno chiamato solo per sostenermi sostanzialmente, ma nessuno mi può tirare per la giacchetta, perché io non ho nessuna appartenenza, quindi non devo niente a nessuno. Questo mi rende un po' più semplice quindi l'operato, e devo dire che si è creato un bellissimo clima all'interno, in cui l'interesse centrale è quello di lavorare nell'interesse del paese. Questo è l'unico interesse che ci guida, non ha nessuno di noi altri interessi, anzi ciascuno di noi ci rimetterà qualcosa come spirito di servizio. Questa è la cosa che ci sta guidando tutti, questo senso di partecipazione nell'interesse di Castelbuono. Per quanto riguarda la composizione della lista, devo dire che è una lista molto bella, molto rinnovata. Non vi anticipo i nomi, domenica li saprete, domenica sera, quindi al comizio illustreremo sia la lista che la composizione della giunta integrale, e quindi è una lista fortemente rinnovata. Io avrei preferito mettere metà donne e metà uomini, se devo essere sincero, ma devo dire che c'è una difficoltà oggettiva a impegnare le donne, ma non è una difficoltà solo nostra a Castelbuono, è una difficoltà in tutta la Sicilia. Devo dire che dovunque, nei sindaci che io assisto e quindi che si apprestano al rinnovo, hanno tutti difficoltà a trovare quindi le ragazze da impegnare in politica, e quindi questa è stata una difficoltà, un po' mi ha amareggiato, devo dire, perché mi sarebbe piaciuto fare una lista metà e metà, però questo non ha nessuna importanza, insomma ci abbiamo quattro belle ragazze in lista. E in giunta, una cosa che posso anticipare, sicuramente avremo due donne e due uomini. insomma, per la par condicio la quota rosa è ampiamente una notizia, gli altri due nomi saranno al femminile, che ci dirà domenica, giusto? Gli altri due nomi saranno al femminile. Torniamo un attimo ai fatti invece mancanti di Castelbuono, cioè dove è mancata la presenza. Io mi rifaccio a quello che diceva prima lei all'inizio della trasmissione, quando ha detto: ma i primi 5 anni è stato stupendo, abbiamo abbracciato, abbiamo votato, eccetera, gli ultimi anni un po' ci siamo persi di vista. C'è un altro aspetto a Castelbuono che mi lascia un pochino perplesso. Da alcuni studi effettuati da ricercatori, e l'ho posto anche a Norata, il quale ha detto che è incontrovertibile invece la situazione, mi risulta che ci sia una certa incidenza tumorale dovuta a delle falde, o per meglio dire delle situazioni underground, cioè delle cose nascoste. Non parliamo di rifiuti speciali, tossici, nocivi, non si sa dove sono allocati, non si capisce se è vero o non è vero, sono vox populi, vox dei. Però sta di fatto che questa incidenza c'è, sta di fatto che comunque le condutture dell'acqua potabile non sono mantenute al meglio, non sono state sistemate, eccetera. Lei ha avuto notizie di quando le sto chiedendo? Io non mi avventuro mai in cose che non conosco. No, devo dire, con la conduttore idrica, insomma, no, un attimo, non mi avventuro sui timori. Sui timori non mi ci avventuro, perché ci vogliono studi altamente scientifici e non sono conclusioni molto affrettate. Ma non sono le mie conclusioni, non faccio lo scienziato. Io dico, io non ho mai visto studi seri su questa materia. Devo dire, anche a Gela, quando collaboravo col sindaco Crocetta, mi ricordo, lì si sono fatti centinaia e centinaia di studi in materia di tumori. E anche lì dove c'è, hanno lo stabilimento a un passo praticamente dalla città, e dentro la città sostanzialmente, anche lì si discute ancora oggi se c'è un'incidenza dello stabilimento. Lì è certa che c'è, ma anche lì si discute. Figuratevi a Castelbuono, che stiamo sostanzialmente in una bellissima località, diciamo, montana o collinare, in cui sostanzialmente non vi avventurerei un discorso di questo tipo. Quindi concordo qui, devo dire, col candidato Norata. Per quanto riguarda la conduttura, è vero, ci sono grossi problemi. Anche lì c'è stato, devo dire, il solito disastro siciliano, perché tutti gli investimenti che doveva fare lato idrico, e quindi la società provinciale a cui era stato destinato il servizio, sono stati sostanzialmente persi, stanno tornando indietro alla Comunità Europea. Lì è veramente scandaloso, ma è uno scandalo che non parte qui, però questo da Castelbuono, ma parte più da lontano. Lì bisognerebbe ripartire, e speriamo che la regione qui dia una mano a ripartire con questi fondi comunitari e fare gli investimenti previsti per l'ammodernamento e la rete anche di Castelbuono. Erano previsti più di 3 milioni di euro, quindi speriamo lì di poterli recuperare. Sì. Prego. Giovani in primo piano con la lista Castelbuono Libera, quanto possono essere una valvola d'entusiasmo e quanto realmente poi potranno essere capaci, senza che me ne vogliano, di amministrare, di essere parte importante per la vita amministrativa di Castelbuono? Guardi, io questa è una domanda un po', diciamo, che fanno un po' tutti, perché giustamente c'è il timore della novità. Io dico soltanto una cosa: innanzitutto ci deve essere la garanzia mia, prima di tutto, e penso di dare ampia garanzia questa ai cittadini di Castelbuono, per quello che ho fatto, per quello che rappresento, per quello che è la mia storia. Quindi penso, sotto questo profilo, di dare ampia garanzia. In giunta penso che già le due persone che abbiamo messo sono tutte e due persone che danno ampie garanzie, sia Dario sia Enzo Castiglia danno ampie garanzie. Dario, perché ha lavorato tantissimo nel sociale, tantissimo, lei sa, organizza diverse manifestazioni importanti di Castelbuono, e Enzo Castiglia perché ha una grande esperienza, perché ha fatto 5 anni nella prima legislazione di Mario Cicero, è un grande esperto di bilancio, quindi ci potrà dare una mano, perché il bilancio è un elemento centrale in un'amministrazione. Penso che anche le altre due candidate ed altre due componenti della giunta, ormai lo posso dire, saranno al femminile. L'unica cosa che vi dico, penso di metteremo persone che di grande profilo, stiamo mettendo, per cui anche sotto questo daremo un'ampia garanzia ai cittadini di Castelbuono. Per quanto riguarda il consiglio, anche lì stiamo cercando di mettere gente esperta e gente nuova. Esperta, posso dire, ci sarà Rosa Ramazzola sicuramente, che è grande esperta in materia di bilanci, e quindi il bilancio passa al consiglio, bisogna dare anche una garanzia lì. Stiamo mettendo Carollo, che lavora al parco, Salvatore Carollo, e quindi anche lì daremo questa garanzia di alto profilo. C'è Eugenio Allegra che sarà capolista, quindi che già ha da 20 anni diciamo fa parte quindi di diverse compagini, quindi ha esperienza amministrativa, quindi abbiamo anche lì dato un senso. Gli altri non ve li dico, li vedo domenica, però vi ho dato qualche anticipazione. Prima di dare la voce alla pubblicità della radio, le ha citato poco fa il bilancio, molti dicono che non è così disastroso, che ci sono 1,5 milioni di crediti da riscuotere, quindi tutto sommato non è così disastrosa la situazione. E dal suo punto di vista invece? Allora, dal suo punto di vista? Devo dire che i bilanci, qui voglio essere anche onesto, mi piace essere onesto con la gente, non mi piace prendere in giro le persone, forse l'avete capito. Infatti mi tengo sempre basso, proprio perché non voglio dire qualcosa che poi non posso mantenere. Nei bilanci dei comuni sappiamo bene spesso come vengono quindi fatti i bilanci. Spesso si gonfiano le possibili entrate per spendere di più. Lì non lo so oggettivamente come è composto il bilancio, bisognerà vedere a fondo, perché non è soltanto semplice andare a vederlo nel documento formale, bisogna entrare dentro. Non c'è effettivamente quel disastro di cui si parla, anche qui bisogna essere onesti. Sicuramente c'è una grossa scopertura che dovrebbe essere coperta dai crediti che si vantano. Sui crediti dobbiamo fare un'analisi attenta, però devo dire che in atto non c'è un disastro, cioè questo per onestà intellettuale va detto. C'è una situazione che va monitorata, c'è un problema anche di tagli forti da parte dallo Stato e dalla Regione, quindi bisogna essere molto attenti, però non sarei catastrofista. Ci fermiamo un attimo, grazie Avvocato Polizzotto, grazie a Rosario Mazzola, un attimo diamo la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria, al rientro avremo ancora un 15 minuti circa per poter parlare, sorridere e perché no anche provocare. Linea alla regia. Sono le 13:10. L'ora esatta vi è offerta dall'orologeria e gioielleria Danna Vincenzo, Corso Ruggero 34, Cefalù. CRM. Pubblicità. Ristorante pizzeria Villa De Melograni, nuova gestione. Ci siamo fatti in quattro: Rita, Daniele, Giacomo e lo chef Giovanni Porcello. Veniteci a trovare venerdì sera per le specialità delle 9 pizze e vi offriamo le misticanze calde. Sabato sera vi offriamo l'aperitivo e domenica a pranzo un ricco ed appetitoso menù. Villa De Melograni, la scelta migliore per il ricevimento del vostro tanto sognato matrimonio, dove in ambienti eleganti e romantici potrete scrivere quel libro la cui sceneggiatura è già impressa nei vostri cuori. Villa De Melograni, il posto ideale per festeggiare le vostre ricorrenze più importanti. A Cefalù, in via del Giubileo Magno 2, con ampio parcheggio, Villa De Melograni. Anche sala congressi. Chiuso il martedì. Per prenotazione e informazioni 0921 422 517. www.villademelograni.it. Un'atmosfera da favola. Le calette sala eventi. Una terrazza mozzafiato sul mare del Golfo di Presidiana, Cefalù. Le calette sala eventi. Per festeggiare matrimoni, battesimi, cresime, lauree e qualsiasi altro evento importante. Con terrazze e sala vista mare che possono ospitare fino a 300 persone. E dove la professionalità dello staff si sposa con il buon gusto. Vieni a visitarci. Le calette sala eventi. Contrada Presidiana, Cefalù. E i sogni diventano realtà. Supermercato PAM Cefalù, una vasta scelta di prodotti, assortiti reparti di frutta, carne e formaggi e salumi. Offerte periodiche, tante idee e tanto risparmio. Supermercato PAM, via Cirincione 62 Cefalù, telefono 0921 420 167. Incredibile, strepitosa offerta scacciacrisi al ristorante pizzeria Ron e Salvo. Occhio, da oggi tutte le pizze consumate al tavolo verranno scontate del 50%. Il risparmio inizia da noi. Mangiare bene spendendo poco. Info e prenotazioni 091 81 40 159 oppure 347 59 62 101. Ristorante pizzeria Ron e Salvo, contrada Buonfornello, Termini Merese. L'amore per le piante a Cefalù è Hobby Garden. Piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore. L'amore per le piante. Via Montessori, Cortile 3, Contrada Pacenzia. Telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova a Campo Felice di Roccella, manutenzione di parchi, giardini, residence, prati. Contrada Pista Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella. Telefono 0921 428 927. Vivai Cova, di Fabio Cova. La convenienza di acquistare da chi produce. La genuinità ha un solo nome: Polleria Rosticceria San Salvatore di Caccamo e Catanzaro. Troverai carni bianche di ottima qualità, dai tacchini ai polli alle quaglie. Una scelta unica e gustosa. E ancora i polli disossati e rollò di pollo. E se non hai tempo per cucinare, proprio accanto trovi la rosticceria con polli allo spiedo, accompagnati da deliziose patatine fritte da gustare in un attimo. Ricorda, Polleria Rosticceria San Salvatore di Caccamo e Catanzaro. Strada statale 113, numero 4753, contrada Pietra Pollastra, vicino al passaggio a livello di Cefalù. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423456. E allora, rieccoci in studio, state ascoltando Carta e Penna, in studio oltre che il sottoscritto Filippo Glorioso, l'amico Rosario Mazzola e il candidato sindaco di Castelbuono, l'avvocato Polizzotto. Avvocato Polizzotto, tre persone, tutte e tre tecniche questa volta. Norata ha avuto qualche esperienza politica in passate amministrazioni, ma poi è stato un tecnico, insomma è un liquidatore del lato Palermo 5. Lei è un tecnico, è stato lontano dalla politica, mai forse si è barcato, camminato qualche volta in politica, ma non si è mai, non ha mai fatto una carriera politica come potrebbe essere Mario Cicero, per dirne una, no? Cioè, ha avuto qualche momento, poi ha preferito continuare l'iter del suo lavoro. E anche lei è un tecnico. Antonio Tumminello, anche lui tecnico. Per cui tre tecnici, tutte e tre nelle loro peculiarità, tutte e tre in gamba, tutte e tre bravi. La domanda che le pongo è questa: perché i cittadini castelbonesi dovrebbero scegliere l'avvocato Polizzotto? Cosa ha di più degli altri due? Ma io non ho nulla rispetto agli altri, non ho assolutamente nulla in più. No, dal punto di vista di politico intendo, non certamente umano. Ognuno di noi ha le sue peculiarità, ognuno di noi ha le sue specificità, ognuno di noi ha un valore umano, quindi non mi permetterei mai di avventurarmi in cose del genere. È chiaro che io do un senso più ampio invece a questa domanda. È chiaro che il Norata custodisce la continuazione di Mario Cicero, ma lui stesso, insomma, l'ha detto, lui è dietro di lui, lo va dicendo a tutte le persone in giro, quindi dico, ci sono io dietro Norata, ci sono io, quindi sostanzialmente la gente deve dare anche un giudizio su Mario Cicero, devo dire. Se la gente ritiene che sia stata l'ultima legislazione una legislazione importante, allora voti pure Norata. Se ritiene che si debba dare un cambiamento, allora non voti Norata, perché è chiaro che sia la continuazione di Mario Cicero. Devo dire che dall'altro lato abbiamo questa compagine abbastanza ampia che ha messo su Antonio Tumminello. Lì c'è qualche perplessità, perché gente che da 20 anni che fa politica, da 20 anni che sono dentro, più o meno opposizione, un po' maggioranza, quindi mi sembra una compagine molto, un po', devo dire, attaccata un po' con la colla, che rischia di staccarsi facilmente quella compagine, senza entrare naturalmente nei meriti delle persone, soltanto sotto un profilo politico. La nostra sicuramente è una vera novità, perché è chiaro che io non ho mai fatto politica, quasi nessuno di noi ha fatto politica. Cioè, qui c'è una vera novità. Una novità però fatta di contenuti, di gente, di professionisti, di gente impegnata nel sociale, per cui la gente ci deve votare se ci ritiene capaci, sotto questo, innanzitutto giudicandoci su questo, sia sulla novità vera, non più legata alla vecchia politica, e sulla professionalità e la competenza. Grazie avvocato, do la parola a Rosario. Sì, io volevo completare l'ultima domanda, sì, eh? Proprio ultimissima domanda. Poi lasciamo andare l'avvocato. Perché dobbiamo lasciarlo andare. Gli impegni dei candidati sindaci sono così, uno dietro l'altro. Ecco, deve anche lavorare, tra l'altro. Sì, ed è proprio il tasto che volevo toccare, quello del suo lavoro. Lei l'ha detto chiaramente: io continuerò a fare la mia professione, dedicherò a questa possibile carica di sindaco a Castelbuono il tempo che potrò togliere alla mia professione. Ma in termini pratici, così, idealizzi quello che sarà il suo impegno di sindaco e quello che sarà il suo impegno privato continuando la sua professione. Guardi, io devo dire la verità, fino a ieri avevo una paura matta, fino a 15 giorni fa, di fare questo passo proprio per questo, perché ho, diciamo, una professione molto, diciamo, molto importante, lo studio nostro è uno degli studi più importanti che c'è in Sicilia, non solo, quindi è un'attività molto complessa la nostra. Devo dire che ho una bella organizzazione, perché ho diverse persone che mi collaborano, quindi posso anche gestire all'interno il tempo. Naturalmente toglierò qualcosa al mio lavoro, non l'ho detto in maniera molto tranquilla, toglierò qualcosa rinunciando a una parte del mio reddito, lo dico in maniera molto chiara, perché fare una scelta di questo tipo a me implica togliere una parte del mio reddito. Ma lo faccio, lo ripeto, sempre con quello spirito cristiano. Ho deciso di farlo e lo farò col massimo impegno. Naturalmente state tranquilli che io per fare una delibera ci metto un quarto d'ora, altri gli metterebbero 2 giorni. Io sono, diciamo, ho una competenza tale per cui posso anche gestire il tempo in maniera diversa. E naturalmente questo mi avvantaggerà eventualmente anche nei tempi. È chiaro che cercherò di coniugare l'uno e l'altro. Scusami, ma era l'ultimissima domanda, è proprio quella che sei tirata proprio dal calcagno. Ha creato anche qualche polemica, qualche discorso di troppo in piazza, se vogliamo, ma era quella dell'autista. Ma guardi, è una sciocchezza, è un'idiozia pura, devo dire la verità, è un'idiozia pura questa qua, perché io ho detto cosa? Io voglio dire, naturalmente giro tutta la Sicilia, tutti i giorni. Naturalmente, se dovrò fare pure il sindaco per avere una maggiore anche libertà di movimento, è chiaro che io con i miei soldi posso prendere chi voglio. Dico, qua qualcuno pensa, dico, che lo voglio pagato, non voglio pagare niente da nessuno. Cioè, io con quello che guadagno mi posso pagare il mio autista, ma lo pago eventualmente se necessario, se servirà, utilizzerò una persona che mi accompagna. Forse sarò il primo a creare un posto di lavoro a Castelbuono. Il primo posto di lavoro sarà probabilmente una persona che mi accompagna, che più che autista lo definirei un compagno. Poi se sarà necessario, se non sarà necessario non lo farò. È chiaro che io non è che voglio assolutamente che qui si pensi che l'avvocato Poizzotto abbia pagato l'autista al comune, assolutamente no, anche perché ho detto che la mia indennità verrà devoluta in opera di beneficenza e quindi sarà utilizzata per soccorrere anche persone bisognose, famiglie che hanno bisogno, quello che sarà necessario. Questo lo stabiliremo di volta in volta. Io non lo faccio per avere l'indennità, non lo faccio per avere uno stipendio, non lo faccio per avere una posizione di potere. L'avete capito probabilmente perché lo sto facendo, spero di essere stato chiaro. Se creeremo questo posto di lavoro di una persona che mi accompagna, ben venga. Insomma, la risposta che sia stata abbastanza esaustiva. Prima di lasciarla, l'ultima, una dichiarazione sua ai cittadini di Castelbuono che la stanno ascoltando, se si sente di dire qualcosa ancora. Ma guardi, io non dico assolutamente nulla, loro mi devono ascoltare, vengono in piazza, ascoltano quello che diciamo loro, se ci ritengono capaci ci votino, se non ci ritengono capaci possono votare liberamente gli altri. Grazie all'avvocato Poizzotto di essere stato con noi, è stato molto esaustivo, tranquillo, poi sorridente, insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata. Che, come dire, in bocca al lupo, che vinca il migliore, almeno da parte nostra questo dobbiamo dire. Noi non possiamo essere elettori di nessuno, perché io voto al mio paese, lui vota a Palermo, per cui però ci auguriamo per Castelbuono, ci auguriamo che per Castelbuono e soprattutto per chi va a gestire la res pubblica a Castelbuono tanto proficuo lavoro e soprattutto molta serietà, perché ce n'è bisogno visto i tempi che abbiamo in giro dal nord al sud. E io aggiungo soltanto una cosa: chiunque sia sindaco di Castelbuono lo faccia solo per il bene di Castelbuono. Beh, questo è fuori di dubbio, l'aveva detto anche lui prima, l'ho detto Onorato, lo dirà anche Tumminello la prossima volta. Avvocato, in bocca al lupo e cos'altro dirle? Mi auguro che la sua compagine possa andare avanti insieme a tutti gli altri e che vinca il migliore. Grazie a lei. Noi invece continuiamo ancora per pochi minuti, perché io devo parlarvi di altri due sponsor, cioè La saluto ancora, avvocato, e noi torniamo a parlare quindi degli sponsor, come dicevo prima. No, pregherei il collega di stare in posizione, grazie. Oh, hai cambiato posto, hai preso quello del sindaco, complimenti, ti puoi candidare anche tu. Appena sindaco gli ruba la poltrona. Dunque, secondo me, insomma, è stato abbastanza chiaro nell'espletare quelle che sono i suoi pensieri, di quello che vorrà fare, di quello che vorrà, come vorrà gestire la res pubblica. Ha parlato in maniera molto chiara anche di devolvere a chi ne avesse bisogno nella cittadinanza il proprio stipendio. Ha detto giustamente: se io pago di tasca mia, il mio autista, non, l'importante è che non tolgo nulla. Io, qual sì, è una tua riflessione? No, la mia riflessione è sempre una, cioè in questa fase, in questi momenti, cioè tutti i momenti che accompagnano una campagna elettorale sono i momenti in cui esce fuori il bello, il buono, la cosa migliore. Ciò che deve la gente, l'elettore capire è ciò che sarà ogni persona che loro vogliono votare, cosa sarà dal 7 maggio in poi. Quello è. Perché presentarsi con belle parole è facile per tutti e loro sono bravi e buoni oratori, però poi essere capaci di mettere in atto quello che hanno promesso, quello che hanno detto e pubblicizzato in campagna elettorale sarà il vero momento in cui dovrà venir fuori il grande sindaco che deve riportare in alto Castelbuono, perché dobbiamo essere franchi, Castelbuono è in caduta libera. Castelbuono negli ultimi tempi ha perso, anche col turismo, sì, ci sono dei problemi seri, ha perso delle presenze turistiche, diciamo che ha perso quello smalto che l'aveva lanciata, come avevo detto prima, quasi ai vertici del turismo siciliano. Rosario, mancano 5 minuti, io ho fatto una domanda che tu hai seguito, non stai alto 5 minuti, puoi stare, poi daremo lettura degli ultimi sponsor e passeremo i saluti dando l'appuntamento a domenica prossima alle 9:30 per la differita. Tutte e tre, dicevo prima al candidato sindaco Polizzotto, tutte e tre sono validi come professionisti e anche sotto il profilo umano, insomma sono persone scevre dall'essere giudicate dalla giustizia terrena, voglio dire non hanno cariche pendenti, sono persone per bene, insomma. Però sorge un dubbio: secondo quanto, per quanto tu conosca i tuoi concittadini castelbonesi, che sono molto particolari per quanto attiene la scelta del candidato sindaco, ci fu un'esperienza passata a proposito della Vigari che cercò di fare un qualcosa ma fu totalmente accantonata. Tu pensi che ci possono essere le chance più uno sull'altro dei tre? Chi vedi meglio tu, senza dare indicazioni particolari? Ma io... O li vedi tutti e tre sulla stessa stregua? Personalmente ho delle idee ben precise sui tre candidati e quelle sono mie e resteranno solo mie. Ci mancherebbe altro. Indubbiamente, anche perché il ruolo che rivesto... Ma per me, tu pensi come... che uno dei tre possa riuscire a far quello che ha promesso di fare o si farà imbastire dalla macchina comunale? Io credo soltanto che la bontà di un sindaco si vede da pochi elementi che sono quelli che riuscirà a fare, ripeto, dopo il 7 maggio, e dobbiamo sempre metterci quella dose di fortuna che non guasta mai, perché io credo che oggi parleremmo in termini brutti, negativi di Mario Cicero se non si fosse inventato lui o chi per lui quel mezzo mediatico che è legato agli asini. Alla fine ha fatto ben poco nella sua sindacatura se non proiettare Castelbuono attraverso un mezzo che è caduto quasi dal cielo, non era l'asino che volava, insomma era stata una scelta così buttata lì e si è rivelata vincente, ma è stata quella dose di fortuna che non guasta mai e che fa fare quel salto di qualità che altrimenti Castelbuono non avrebbe fatto mai. Quindi il sindaco deve saper fare poche cose, però mettere nelle condizioni i castelbonesi di vivere bene, di vivere meglio, perché c'è tanto da fare da questo punto di vista, dal sociale, come hai sottolineato tu, a quello che riguarda gli aspetti manutentivi. Le strade sono un colabrodo, si rischia di cadere in ogni angolo del paese. Siamo senza la cultura, è calpestata, siamo senza un teatro, siamo senza una possibilità di fare qualcosa se non quello di dover aspettare l'estate per fare gli spettacoli in piazza. Rosario, io ti ringrazio, è stato veramente piacevole averti in trasmissione, sei stato come sempre bravo nel gestire la dialettica con i nostri interlocutori, in questo caso l'avvocato Polizzotto, ma anche con i ragazzi della squadra. Tu sei un castelbonese doc che vive per motivi di lavoro, come ovvio, su una grande città che è Palermo, ma torni spesso e volentieri nella nostra città, mi consentirai il nostro, anche se io sono un innestato a Castelbuono, ma ho sempre amato queste città per gli aspetti peculiari che ha, per la forma mentis che ha, per quanto amore mette nei confronti del proprio paese. L'augurio che vi faccio a voi castelbonesi è quello di avere un sindaco all'altezza del compito, perché se no, veramente, se l'amministrazione non funziona, tu capisci bene che andiamo a finire chissà dove. E la seconda cosa, che questo paese non solo possa crescere sempre in maniera esponenziale sotto il profilo culturale, economico e sociale, ma che abbia come riscontro ancora una volta quella forza esterna di amore degli altri che vengono a visitare Castelbuono, che non finisca mai, perché se finisce quello, e in questo devono essere sinergici sia l'amministrazione comunale che il popolo castelbonese, che ha allargato sempre le braccia a chi è venuto da fuori. Questa è una vostra politica straordinaria. Sì, sono d'accordo con te, mi permetto di aggiungere soltanto un'ulteriore riflessione. Cari, non vorrei apparire adesso il candidato sindaco che fa cari concittadini. Però dico a tutti con grande senso di responsabilità, il 6 e il 7 maggio, quando uscirete da casa con la scheda elettorale per andare a votare, fatevi un bel esame di coscienza e votate con quella coscienza di dire: io voglio il bene di Castelbuono. Questo è l'augurio più bello che posso fare a Castelbuono. Bene. Mensana in corpore sano, una bella passeggiata, e nel frattempo, mentre vi rilassate, pensate bene. Grazie a Rosario Mazzola per questo momento anche topico, se vogliamo, di afflato nei confronti nostri, ma anche verso il paese che ci ospita e del suo di origine. Io mi fermo qui, e prima di salutarvi vi voglio dire che c'è un aspetto importante: l'energia elettrica, la bolletta che veniva, che è così pesante, potete tagliarla come quando vi pare. Cosa bisogna fare? Bisogna chiamare l'800, un numero verde, attenzione, 111 341. Dall'altro capo vi risponderanno i tecnici della media lettera di Badalamenti Angelo a Casteldaccia, che col sistema Sunpower vengono a casa vostra, vi fanno il preventivo, vi installano i cosiddetti fotovoltaici, che poi sono i pannelli solari. Con questi pannelli voi non solo abbatterete del 50, 60, 70% la vostra bolletta della luce, ma una volta che comincerete ad entrare in produzione, l'energia elettrica vi verrà addirittura pagata o rimborsata. Per cui due aspetti importanti: il tagliare la bolletta da un lato e il rimpinguare le vostre tasche dall'altro. Ricordate, media lettera in via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia, il numero verde ve lo ricordo 800 111 341. Chiamate e avete la possibilità di non sentirvi più pesare sulle vostre tasche la bolletta della luce. Passiamo invece a un'altra azienda molto bella anche questa, giovane, pimpante e dinamica, gestita da un ragazzo di appena 30 anni, Bruno Sergio, Clima Ideale, si chiama così, centro assistenza delle caldaie della Bosch, centro assistenza outlet e Lemblanc, a sistema depurazione delle acque gel o acque dure o dolci, depurazione, pannelli solari, acqua calda, circolazione forzata o ecologica. Allora, il sito è www.ilclimaideale.com, il telefono invece è 0921 426 767. E a rispondere sarà lo stesso Bruno o chi lo sta collaborando, i tecnici che collaborano con lui, le caldaie con biomasse al tatano, quindi pensate di cosa sono capaci di vendervi e installarvi e poi gestirvi nel tempo come tecnici le caldaie, non solo le caldaie ma anche i pannelli solari e tutto quello che necessita al vostro fabbisogno. Vi ricordo il numero 0921 426 767. Clima Ideale di Bruno Sergio a Finale di Pollina, non lo scordate. Se invece dovete arredare la vostra casa con delle porte d'interni, con delle maniglie molto belle, ma anche farde sotto i vostri occhi e con dei vostri progetti, farvi fare degli infissi o, per meglio dire, anche delle camere da letto, dei soggiorni, che oggi non si usano più, ma comunque se li volete fare li facciamo anche. Sono 2M Porti che arredano di Mario Marguglio. Dove lo trovate? In via Cavour 74 come esposizione, quindi come showroom. Invece il centro di produzione istituzione incontrata San Calogero a Castelbuono. Telefono, dovete chiamare prima per prenotarvi, altrimenti non vi ricevono, loro sono operatissimi di lavoro. 0921 677012, questo è il numero, vi presentate, fissate l'appuntamento. Se avete necessità di farvi la camera da letto, di farvi la cucina, di comprare le porte d'interno, vi faccio un esempio per tutti, oggi non spendere, insomma, comincia a essere un po' complicato. Bene, le porte in rovere massiccio, pensate, a 600 euro incluso il montaggio. E poi gli arredi interni, le maniglie, c'è una vastissima gamma, per cui recatevi nello showroom, vedete cosa hanno fatto, cosa creano, come riescono a creare, e poi una volta preso visione, insomma, scegliete quello che più vi aggrada per la vostra casa e naturalmente godetevela fino in fondo. Noi siamo arrivati alla fine di questa ennesima puntata di Carta e Penna, abbiamo avuto la squadra della Castelbonese con parte della dirigenza, abbiamo capito quanto valga fare sport, cos'è la valenza dello sport, in questo caso il calcio, abbiamo avuto ospite il candidato sindaco, l'avvocato Polizzotto, che ci ha salutati per impegni presi prima e quindi in 10 minuti prima della chiusura del programma, per sua scelta, non evidentemente perché noi abbiamo messo la porta, ci mancherebbe altro, noi non buttiamo fuori nessuno, anzi, più siamo meglio stiamo. E poi Rosario Mazzola, che ancora volevo aggiungere qualche altra cosa. No, soltanto volevo, nel salutare tutti, ringraziare te Filippo per le carinerie, per la cortesia di avermi ospitato. Ti sono dovute. Qui. E ringraziare l'editore, al quale voglio rivolgere un invito ben preciso. E grazie intanto per avermi dato questa opportunità, è una bella realtà la vostra, io vi seguo molto anche da Palermo attraverso internet. E perché non fare una redazione, una postazione fissa che operi da Castelbuono? Questa è una domanda che le rivolgo e che spero possa andare a buon fine, perché anche la piazza di Castelbuono merita una radio che possa essere più locale di quanto già non fa CRM, di questo ve ne sono grato. Ancora un'ultima cosa, hai fatto i tuoi messaggi promozionali, pubblicitari, lasciatemi fare quello per Suproponte, il giornale che dirigo. Vi ho parlato che domani avremo questo incontro con i tre candidati sindaci che relazioneremo nel numero che uscirà il 5 aprile, dove nello stesso numero avremo uno speciale di 4 pagine, un inserto speciale dedicato alla Castelbonese. È un giornale che va solo in abbonamento, chi vuole ci aiuti, abbiamo bisogno di tutti. No, io invece desidero che tu mi faccia una promessa, capisco, compatibilmente con i tuoi impegni istituzionali e di giornalista, siccome noi abbiamo un certo afflato, ci capiamo negli occhi, insomma, riusciamo a lavorare bene insieme, quelle poche volte che ci è successo di farlo, e lo facciamo intanto con affetto, con stima reciproca, sia professionale ma ancor prima umana, la cosa che mi preme è quella che quando tu vorrai partecipare su questo programma accanto a me e aiutarmi a portare la barca in secca, beh, insomma, sai che sei benvenuto, mi fai uno squillo e i nostri microfoni sono non solo a tua disposizione, ma anche noi ti apriamo le braccia, perché a noi fa piacere che gente competente dica la sua dietro questi microfoni. Io ti ringrazio, per me è un piacere, ma soprattutto un onore. Ciao. Grazie Rosario Mazzola, grazie a tutti quanti voi per averci ascoltato, grazie agli sponsor, l'appuntamento vi ricordo è per domenica prossima alle 9:30 per la differita, potete seguirci anche su internet se volete, sono i podcast dove potete anche sentire le puntate precedenti. Da parte di Filippo Glorioso, grazie, alla parte tecnica il mio Raul Bova, lo ringrazio ancora per la sua paziente, per il suo paziente lavoro, e l'appuntamento naturalmente per la diretta è giovedì prossimo con l'ultimo candidato a sindaco di Castelbuono, il dottor Tuminello. Grazie ancora, alla prossima, a risentirci. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. CRM.